sorpreso come a minuti fuori in un luogo in cui non ebbimo mai cucciasimo. Mi trovai in una sala a sette lati, non molto ampia, senza finestre, in cui regnava, come del resto in tutto lo piano, un odore di stantiute, muffa, niente di terrificante.